Mango Tart legge Mena Cold di San Lin Yu. Capitolo 5. Hermione esplorò la stanza in cui era stata messa. C'era poco che non apparisse subito all'occhio. Il guardaroba era pieno di altri abiti e vesti scarlatte, identiche a quelle che indossava. Erano di varia pesantezza, presumibilmente per il clima estivo e invernale. I cassetti contenevano altre cuffiette e calze di lana, altre scarpe rosse. Hermione ne tirò fuori un paio dal cassetto e le fissò. Le suole erano sottili, di stoffa, si sarebbero consumate rapidamente. Se voleva scappare, doveva rubare vestiti e scarpe nuove. Il ritratto sul muro era quello di una giovane strega, bella e bionda. Senza dubbio una delle antenate di Malfoy. Aveva gli stessi lineamenti affilati e la stessa espressione sdegnosa. La strega non poteva essere più che appena diplomata a Hogwarts quando era stata dipinta. Fissava con indifferenza Hermione, seduta con disinvoltura su una sedia dallo schienale alto, con un libro accanto. Alla fine Hermione si voltò e osservò il resto della stanza. C'era una porta progettata per fondersi con il muro dall'altra parte della stanza. Si avvicinò e la aprì. Un bagno occupato principalmente da una grande vasca a piede d'oca. Niente doccia. Le erano stati forniti nient'altro che gli oggetti più essenziali. Sapone, asciugamani, uno spazzolino da denti, un piccolo bicchiere per l'acqua. Si avvicinò e si lavò le mani. Mentre le ritirava, finse di far cadere accidentalmente il bicchiere dal bancone. Questo colpì il suolo con un suono forte e tagliente, ma non si ruppe, né si incrinò. C'era un incantesimo di protezione anche su quello. Malfoy era stato scrupoloso. Lo raccolse e lo sciacquò prima di rimetterlo a posto. Quando si voltò, scoprì che c'era un ritratto anche nel bagno. La stessa giovane strega stava studiando Hermione con sguardo consapevole. Lei finse innocenza mentre tornava in camera da letto. Nel giro di un'ora non c'era più niente da ispezionare nella stanza. Non che si aspettasse di trovare qualcosa, né aveva intenzione di mettersi nei guai data la sorveglianza del ritratto sulla parete. La strega aveva apparentemente ricevuto l'ordine di tenerla d'occhio come un falco. Andò alla porta della camera da letto e dopo un attimo di esitazione girò la maniglia ed entrò nel corridoio. Il cuore iniziò immediatamente a batterle forte. Il senso di terrore e di libertà che provava semplicemente camminando in un'altra stanza da sola era sconcertante. Mentre si chiudeva la porta alle spalle, si appoggiò alla porta e cercò di fare un lento respiro. Strinse le dita intorno alla maniglia della porta mentre si guardava intorno e cercava di ricomporsi. Il lungo corridoio che scompariva nell'oscurità sembrava così grande. Deglutì nervosamente. Aveva supposto che alcuni effetti della sua lunga prigionia avrebbero continuato a perseguitarla. In realtà, viverlo era più che sconvolgente. Era terrificante. I suoi tentativi di respirare e calmarsi stavano fallendo. Il petto le si sollevava in piccole e rapide inspirazioni. Era l'unico suono nell'ala fredda e buia del Manor. Si morse il labbro. La sua mente. Era sempre stata capace di fidarsi della sua mente. Persino i suoi ricordi bloccati le sembravano un meccanismo di difesa, ma ritrovarsi nel panico e in iperventilazione perché era entrata in un corridoio di sua spontanea volontà le sembrava un tradimento. Strinse gli occhi e cercò di respirare uniformemente. Cercò di togliere la mano dalla maniglia della porta che stringeva disperatamente, come se fosse potuta annegare se l'avesse lasciata andare. La sua capacità di ragionare e di dirsi che stava bene era una persuasione insufficiente per la sua mente e per il suo corpo. Cercò di fare un passo lontano dalla porta, ma le sue gambe si rifiutarono di collaborare. Il terrore che le attraversava il corpo la congelò. Era un corridoio. Solo un corridoio, si disse. Le era permesso di stare lì. Non c'erano incantesimi che la trattenevano. Non c'erano incantesimi che la trattenevano. Solo se stessa. Dopo essere rimasta lì per diversi minuti, cercando e non riuscendo a costringersi a muoversi, singhiozzò bruscamente e si rannicchiò più vicino alla porta. Non riusciva a ricordare l'ultima volta che aveva pianto, forse molto tempo prima, nella sua cella. Mentre stava lì a tremare e a iperventilare nel corridoio di quell'ala vuota del Manor, pianse. Per tutti quelli che erano morti, per tutti quelli che Malfoy aveva ucciso, per tutte le ragazze di Hogwarts che venivano spedite in un mondo di orrore, per la rabbia, per le manette chiuse intorno ai suoi polsi e per le manette che aveva scoperto di aver in qualche modo chiuso intorno alla sua stessa mente. Tornò nella sua stanza, chiuse la porta, sprofondò sul pavimento e continuò a piangere. Ci volle un giorno intero prima che riuscisse a costringersi di nuovo a uscire nel corridoio. Era determinata a superare il panico. La mattina seguente spalancò la porta, si accovacciò sul letto e si costrinse a fissare il corridoio finché il suo cuore non smise di battere dolorosamente nel petto per quella sola vista. Avrebbe perso ogni possibilità di fuga se non fosse riuscita nemmeno a uscire dalla sua stanza senza avere un crollo mentale. Si sedette a letto e mangiò la colazione che apparve mentre contemplava il problema. Si era manifestato quando era sola. Non era sicura se fosse la costrizione delle manette a essere obbediente che l'aveva precedentemente distratta o se fosse una forma insidiosa di trauma mentale. Se essere imprigionata per così tanto tempo l'avesse danneggiata al punto che essere controllata da altri era l'unico modo in cui ora sapeva funzionare. Sperava che fossero semplicemente le manette, ma temeva che fosse la seconda. La prigionia aveva corroso la sua psiche in modi in cui aveva paura di rendersi pienamente conto. Si fece forza, era determinata a superarlo, a qualsiasi costo. Quando quella sera apparve la cena, si costringe a mangiarla seduta vicino alla porta aperta. Le tremavano così tanto le mani che le cadde metà del cibo dalla forchetta. Quando finì di mangiare, il tremore si era attenuato abbastanza da permetterle di bere l'acqua senza rovesciarla a terra. Fissò il corridoio, fissò tutti i mobili coperti e i molti ritratti di aristocratici dal volto freddo e pallido. Cercò di ricordare quello che sapeva di Malfoy. Com'era riuscito a salire così in alto nei ranghi di Voldemort, così giovane? Era stato coinvolto nella morte di Silente all'inizio del sesto anno. Le circostanze non erano mai state del tutto chiarite. Ricordava di essere stata svegliata bruscamente dalle urla. La McGonagall e il resto dei professori erano pallidi per lo shock e l'orrore mentre cercavano freneticamente di scoprire cosa fosse successo. Malfoy era scomparso. Fu il primo e ultimo grande evento della guerra che Hermione associò specificatamente a Malfoy. Dopodiché scomparve nelle file di Voldemort, un altro mangiamorte senza volto. Sua madre era morta diversi anni dopo la guerra. Ricordava di aver sentito parlare della morte di Narcissa Malfoy a Villa Lestrange. Era successo durante una missione di salvataggio. Harry e Ron erano stati catturati dai Ghermidori. Quando l'ordine era andato a recuperarli, un mangiamorte aveva perso il controllo di una maledizione al demonio e bruciato il Manor con dentro Narcissa e Bellatrix. La morte di Narcissa aveva fatto impazzire Lucius Malfoy. Aveva preso il posto di Bellatrix in quanto a follia. Aveva dato la colpa della morte di Narcissa a Ron e Harry e si era dedicato a vendicarla dando la caccia ai Weasley. Il danno cerebrale di Arthur Weasley e la quasi morte di George durante la guerra erano stati entrambi causati da Lucius. Era diventato una mina vagante tra le fila di Voldemort. Era troppo utile e letale perché la sua insubordinazione lo facesse uccidere, ma aveva costantemente danzato su quella linea. Hermione aveva pensato che Lucius potesse essere Lyreave, visto quanto fosse vizioso, pieno di odio e veloce nell'uccidere, ma dato che non lo era, si chiese se fosse ancora vivo. Forse dopo la guerra aveva finalmente superato il limite e si era fatto uccidere. Lo sperava. Il modo in cui Lucius aveva riso mentre Ron moriva urlando in agonia. Non ne avrebbe mai scacciato il ricordo. Ma Malfoy non l'avevano mai preso particolarmente in considerazione come mangiamorte durante le riunioni dell'ordine che riusciva a ricordare. Qualsiasi cosa avesse fatto per farsi strada fino alla cima doveva essere avvenuta alla fine della guerra. Forse era stato coinvolto in quello che aveva fatto crollare i piani dell'ordine durante la battaglia finale. Poiché era una guaritrice, lei non era stata presente per tutta la battaglia. Qualcosa nella loro strategia era andato storto. C'erano molti più mangiamorte di quanto l'ordine avesse previsto. Voldemort aveva lanciato una Avada Kedavra e Harry era caduto. Poi aveva ordinato a Lucius di confermare che fosse morto. Ma non lo era. E così Voldemort ne aveva lanciato un altro. E un altro. E un altro. E un altro. E dopo una mezza dozzina di maledizioni, era andato a confermare da sé che lo fosse. Per sicurezza, aveva fatto impiccare il corpo di Harry alla torre di astronomia. Tutti erano rimasti a guardare mentre gli scagliava una maledizione di necrosi ad azione rapida. E il corpo si decompose davanti ai loro occhi. Gli occhi verdi e vuoti. Gli vedeva ogni volta che chiudeva i suoi. L'espressione sul suo volto, la consapevolezza di aver fallito scritte in essi nella morte. Tremava mentre ci pensava. I suoi migliori amici erano morti davanti ai suoi occhi. Per un crudele scherzo del destino non le era stato permesso di seguirli. L'avevano lasciata indietro. Squadrò le spalle e si costrinse a fare un passo nel corridoio. Aveva affrontato ogni sorta di orrore. Non si sarebbe fatta sconfiggere dalla sua psiche fratturata e da un corridoio. Un passo, due, tre, quattro. Il respiro le si affievolì e strinse le mani a pugno fino a sentire le unghie affondare nella pelle. Cinque, sei, sette. Drip, drip, drip. Si bloccò e guardò in basso. Da una delle mani le stava gocciolando sangue, lasciando una scia sul pavimento. Era della stessa tonalità del suo vestito. Lo fissò fino a quando una pozzanghera delle dimensioni di una noce si raccolse gradualmente ai suoi piedi. Poi continuò lungo il corridoio. Contò i suoni delle gocce invece dei suoi passi fino a quando non raggiunse la fine. Non aveva una destinazione in mente. Così si girò e cominciò a tornare indietro, provando le maniglie delle porte lungo la strada. Alcune erano chiuse, altre non lo erano. Sbirciò in altre camere da letto vuote, piene di mobili ammantati. Più tardi sarebbe tornata ad esplorarle tutte con attenzione. Forse vi avrebbe trovato qualcosa di utile. Stava tremando quando rientrò nella sua stanza. Sentendosi prosciugata, si infilò immediatamente a letto. Mentre si addormentava, sognò Ginny. Ginny quasi alla fine della guerra, con i capelli tagliati sopra le spalle e una lunga e crudele cicatrice su un lato del viso. Era rannicchiata accanto a un letto e guardava Hermione di sottecchi, come se fosse spaventata. Era contorta dall'angoscia, in lacrime. Singhiozzava in modo incontrollabile. «Ginny!» si sentì dire Hermione. «Ginny, che cosa c'è che non va? Cos'è successo?» Mentre Ginny apriva la bocca per rispondere, il sogno finì. Quando si svegliò la mattina dopo, Sapeva che doveva aver sognato, ma cosa non riusciva a ricordarselo. Qualcosa di triste. Premette i palmi delle mani contro gli occhi e cercò di ricordare. Quel giorno non riuscì ad avvicinarsi alla porta. Si rannicchiò vicino alla finestra e guardò i giardini nebbiosi. Su un lato c'era un labirinto di siepi. Lo vagliò con gli occhi. Studiò tutti i terreni della tenuta che riuscì a vedere, cercando di prendere nota di qualsiasi cosa che potesse essere utile. Dove sarebbe andata se avesse cercato di nascondersi, se avesse cercato di scappare? Il giorno passò lentamente. Avere di nuovo il senso del tempo era vagamente inquietante. Il ticchettio costante dell'orologio attirava la sua attenzione, un suono continuo e gracchiante. Se l'ascoltava troppo a lungo, le dita cominciavano ad avere degli spasmi ad ogni scatto degli ingranaggi. Scoprì che la sua mente aveva la tendenza a vagare e a perdersi. Si lasciava distrarre da qualche strano pensiero e si rendeva conto che erano passate ore. Quando la giornata volse al termine, fissò la porta. Avrebbe dovuto costringersi ad uscire di nuovo. Non aveva nemmeno visto Malfoy da quando era arrivata. Aveva intenzione di provare a guardarlo, studiarlo, armarsi di una qualche comprensione di lui. Tutti quei piani erano svaniti negli ultimi 2 giorni. Si alzò e si mosse lentamente verso la porta. Mentre stava avvolgendo le dita attorno alla maniglia, ci fu un improvviso schiocco dietro di lei. Si voltò bruscamente e trovò un elfo domestico in piedi dietro di lei. «Devi prepararti per stasera», dice la padrona, disse l'elfo, distogliendo lo sguardo per poi sparire. Ermione si sentì il cuore in gola. Cominciarono a tremarle le mani. Considerò per un momento di non prepararsi. Senza dubbio, se non l'avesse fatto, Malfoy sarebbe apparso e l'avrebbe costretta a farlo. Chissà cos'altro avrebbe potuto farle se lei lo avesse provocato. Le compulsioni nella sua mente iniziarono ad attivarsi. Obbediente. Non devi resistere. Il suo cervello iniziò automaticamente a catalogare quello che le era stato detto di fare. Non era sicura se la costrizione le facesse razionalizzare l'obbedienza o se l'obbedienza fosse effettivamente la scelta razionale. Andò in bagno e aprì il rubinetto della vasca. Ne uscì acqua bollente e lei rimase a guardare la vasca riempirsi lentamente. Si chiese se potesse in qualche modo annegare prima che Malfoy arrivasse. Come signore del Manor, lui poteva probabilmente materializzarsi ovunque. Rabbrividì al pensiero di essere trascinata fuori dall'acqua, nuda, per i capelli. Si tolse la veste e affondò nell'acqua, sibilando ma assaporando il dolore. Ormai non sentiva quasi più nulla. A quanto pareva, però, le manette non le impedivano di sentire il calore. Era un'informazione utile. Dopo essersi lavata, si asciugò con un sontuoso asciugamano da bagno di grandi dimensioni. Poi si mise un nuovo set di vestiti. Il lungo abito scarlatto, poi il mantello, sempre scarlatto. Poi si mise le calze. Le odiava così tanto. Se non ci fosse stato il gelo nel Manor, non le avrebbe mai indossate. A parte l'orribile colore, poteva quasi far finta che la veste fosse solo un vestito, ma le calze la facevano sentire costantemente esposta. Avrebbe potuto mettere le mutande solo se avesse sanguinato o fosse rimasta incinta, altrimenti sarebbe dovuta rimanere accessibile. Una volta pronta, rimase incerta in mezzo nella sua stanza. Non era sicura di dove doveva andare, di cosa avrebbe dovuto fare. La porta si aprì bruscamente e Astoria apparve, bianca come un lenzuolo. «Bene, sei pronta. Temevo di dover mandare Draco a trascinarti», disse Astoria. La guardava dall'alto in basso con espressione critica. «Ti mostrerò dove andare stasera. Dopo andrò altrove. Mi aspetto che tu ti prepari e ci vada ogni sera designata da sola. Stavo pensando che non hai bisogno di tutte le parti del corpo per riprodurti. Quindi, se stai pensando di causarmi problemi, tienilo a mente». Un brivido corse lungo la schiena di Ermione, che annuì. Astoria uscì dalla stanza, conducendola attraverso la casa, nel salotto e poi su per la grande scala e giù per il corridoio del secondo piano. I ritratti mormoravano mentre passavano. «Puttana!» Lo sentì dire più di una volta. Astoria si fermò alla settima porta. «Entra e aspetta. Draco verrà quando vorrà, ma tu dovrai essere lì alle 8 in punto». Senza fermarsi ulteriormente, continuò lungo il corridoio e scomparve nell'oscurità. Le mani le tremavano mentre afferrava il pomello della porta e cercava di aprirla. All'inizio non girò e dovette fare diversi respiri profondi per calmarsi e far sì che le sue mani smettessero di tremare abbastanza per afferrarlo e girarlo. Entrando nella stanza, colse ogni dettaglio possibile. Era sterile. Forse era semplicemente il modo in cui era Malfoy. C'era un grande letto, un armadio imponente, una scrivania e una sedia. Aveva immaginato che avesse una stanza più lussuosa, tutta verde e argento, con lenzuola costose e cuscini ricoperti da fin troppe nappe. La stanza davanti a lei, invece, avrebbe potuto appartenere a un monaco. Era funzionale. Era tutto ciò che si poteva dire al riguardo. Non c'era da stupirsi che fosse così freddo. Si scostò dal letto e andò verso la sedia vicino alla scrivania. Sedendosi, vi guardò sopra. Pergamena bianca e penne d'oca. Tese la mano esitante verso le penne, chiedendosi se fosse in grado di toccarle. Quando le sue dita si avvicinarono, sentì una leggera sensazione di bruciore e tirò indietro la mano. Lo stomaco le si contorse dal terrore e cercò di distrarsi recitando formule di aritmanzia mentre rimaneva seduta lì. Era abituata ad aspettare all'infinito. Cos'era un'ora dopo 16 mesi di privazione sensoriale? Aveva solo bisogno di smettere di pensare a quello che stava per succedere. Aveva lo stomaco così stretto che pensava avrebbe vomitato. All'improvviso la porta scattò. Lei si alzò e si voltò bruscamente appena in tempo per vedere Malfoy entrare a grandi passi. Aveva una mano alla gola che gli tirava il colletto. Chiaramente non si aspettava di trovarla lì. Si fermò bruscamente e la fissò, sembrando effettivamente impallidire leggermente prima di serrare le labbra in una linea dura. «Sangue sporco», disse dopo un momento. «Oggi è il giorno, vedo».